Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di un progetto che si chiama Green Move e che è stato presentato lo scorso 6 dicembre a Milano. Si tratta di un progetto di ricerca realizzato da Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico, cofinanziato da Regione Lombardia, che mira ad aumentare la diffusione di veicoli elettrici, sia auto che moto, condivisi e compatibili. Soprattutto punta a renderli più fruibili. Parliamo di uno studio che in più di 2 anni di attività coinvolge 10 gruppi di ricerca coordinati da Poliedra, che è un consorzio del Politecnico di Milano e che ora è pronto questo studio ad essere messo in pratica. Ci spiega tutto Alberto Colorni, professore del Politecnico e presidente del consorzio Poliedra. Buonasera Colorni. Buonasera a tutti, buonasera a lei. Dunque, se ho capito bene, voi avete messo in buona sostanza in piedi una piattaforma che è pensata per rendere possibile la condivisione di veicoli elettrici che appartengono a proprietari diversi. Sì. Sì, è questo? È la base del ragionamento. Sì, noi abbiamo puntato su 2 punti forti che ormai sono sempre più significativi. Uno, il tema dell'elettrico, l'altro il tema del vehicle sharing, quindi della condivisione. E quindi attraverso il modello, diciamo, quindi la piattaforma Green Move, noi in futuro speriamo di poter ragionare per mettere in condivisione veicoli non necessariamente di un unico proprietario, di un unico, diciamo, attore, veicoli di varia provenienza, tendenzialmente elettrici, anche se poi alcuni aspetti sono di tipo più generale, in maniera tale che l'utenza possa condividere veicoli, prenderli in un punto, lasciarli in un altro, secondo il meccanismo del car sharing, che ormai è abbastanza diventato. Cioè, io mi abbono a questa piattaforma, mi iscrivo a questa piattaforma, a questo punto io posso, in teoria un domani, posso essere un utente di, non so, un operatore di car sharing, ma potrei utilizzare anche auto di altri operatori e sì, tutto sarebbe trasparente, cioè io non mi dovrei preoccupare di tutti questi aspetti come utente, no? E questo sì, è il punto. Addirittura di privati, se ho capito bene, si potrebbe immaginare di utilizzare l'auto di altri privati. Mi faccio fare una precisazione: noi siamo il Politecnico, quindi non siamo pronti per diventare concorrenti. Non siete un utility, no, certo. Esatto, non siamo per concorrenti di coloro che in questo momento a Milano stanno già operando nel car sharing. Noi abbiamo studiato uno strumento, sì, il senso del progetto che avevamo concordato con la Regione era di arrivare a delle considerazioni, diciamo delle raccomandazioni, se sì, vuoi, oltre che a degli aspetti tecnologici, che rendano il più possibile diffuso e quindi il più possibile integrato, diciamo, quello che attualmente è in mano a operatori diversi. Questo discorso dell'integrazione è un po' la chiave di volta. Nella, certo, nella nostra idea, nella nostra piattaforma, l'idea è quella di avere una gamma di veicoli diversificata, appartenente appunto ad attori diversi, anche ai singoli, come lei giustamente diceva, con il meccanismo che noi chiamiamo peer-to-peer, cioè da pari a pari, sì, quindi la possibilità che proprietari diversi, il grande proprietario, per intenderci Car2Go oppure Guidi, certo, oppure Evai, che sono quelli che in questo momento operano a Milano, ma anche Alberto Colorni, singolo, che in certe, certo, condizioni, in certi momenti vuole mettere a disposizione la sua auto. Condomini, diciamo, che possono avere 2 o 3 automobili condominiali un domani, no, per esempio? Questa è una delle cose che tra l'altro abbiamo studiato in dettaglio. Quindi l'idea è di una integrazione e anche di una standardizzazione, perché per poter mettere in rete, diciamo, operatori diversi, alcuni elementari aspetti, diciamo, di standardizzazione ci devono essere. Per esempio, è un po' l'idea del web, cioè ognuno ormai può entrare e mettere sul web le informazioni che lo riguardano, purché però vengano, certo, verificati alcuni standard, diciamo, e quindi vengano condivisi, diciamo, alcune modalità. Questa è un po' l'idea. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, quindi la gamma di veicoli, la varietà che può consentire questo discorso, l'altro aspetto è quello di esaminare delle configurazioni promettenti, sì, delle configurazioni particolarmente significative. Cioè che si prestino, cioè, appunto a tutto questo, no? Esatto, questo anche per ovviare a uno dei problemi classici del car sharing, cioè una certa soglia, una certa capillarità nella vita. Ecco perché qua veniamo al punto, no? Questi modelli come il car sharing probabilmente funzioneranno veramente bene quando si supererà una certa soglia, cioè quando sarà veramente facile trovare in qualunque momento un car sharing vicino a qualche centinaio di metri magari, no? Di, esatto, distanza a piedi. E quindi, diciamo, mettere insieme serve a fare massa critica e raggiungere più rapidamente, se vogliamo, questa soglia. Mettere insieme serve a fare massa critica e raggiungere più rapidamente, ma, ed era l'altro aspetto che appunto le stavo accennando, la possibilità di individuare delle realtà promettenti, noi le abbiamo chiamate, sì, configurazioni, ne cito una per tutte perché è quella che poi abbiamo sperimentato, l'auto di condominio. Se lei individua in una community, diciamo, in un gruppo, per esempio il condominio, una utente un'utenza particolarmente interessata o interessante, il problema della capillarità viene aggirato, diciamo così, non superato certo. Del tutto, ma viene aggirato, perché a questo punto io posso dimensionare il servizio senza bisogno di inondare, diciamo, la città di auto. Grazie Alberto Colorni. Ok, arrivederci, grazie a voi.